shallagada ele wo desi naile kalaga desi wesi ma shallagada ele wo desi naile kalaga amang kubeso kakagna demirana mangolla kagna amang kubeso kakagna demirana mangolla kagna shorti gontakaya gahullon ona ikko firrawa yona desi wesi mashalla gala ele wo desi naili kalaga Safihna mantanga kumbina banyi dashri shortitena shortitena Safihna mantanga kumbina banyi dashri shortitena shortitena Siunulula gonga shatanyina tarkelaina kitoiga dukina Siunulula gonga shatanyina Tarkelaina kitoiga dukina desi wesi Mashalla galaga ele wo desi naile kalaga dollina dolla maska gabagnina gabagnina huanni ailika dollina dolla maska gabagnina gabagnina ailanni lidangondana awata fejirtandandana ailanni lidangondana awata fejirtandandana desi wesi ajallagala ele wo desi naile kalaga Ailika dollina dolla maska gabagnina gabagnina Ailika dollina dolla maska gabagnina gabagnina Ailanni lidangondana awata fejirtandandana Ailanni lidangondana awata fejirtandandana dana desi wesi ajalla gana ele wo desi